Nostra Signora del Buon Successo, Quito, Ecuador, 1582-1634. Breve racconto dei fatti. Tra il 1582 e il 1634, la Madonna apparve a Quito, in Ecuador, ad una suora di clausura delle Concezioniste, Madre Mariana de Jesús Torres, chiedendo di essere conosciuta e invocata sotto il titolo di Nostra Signora del Buon Successo. Mariana Francisca Torres nacque in Spagna nel 1563 in una famiglia dell'aristocrazia spagnola da Diego Torres e Maria Berrió Choca, entrambi devoti cattolici. Fin dall'infanzia la piccola Mariana ebbe visioni di Gesù e della Madonna. Quando a 9 anni le apparve Gesù e le disse che era arrivato il momento per lei di lasciare la sua casa paterna per abbracciare la sua croce in una terra lontana, Mariana comprese che doveva seguire sua zia, Madre Maria Taboada, nel viaggio che stava per intraprendere nelle Americhe per fondare l'Ordine dell'Immacolata Concezione. Durante il viaggio in nave si scatenò un uragano di inaudita violenza, tanto spaventoso che anche i marinai, ad un certo momento, credettero che non ci fosse più alcuna speranza di salvezza. Mariana e sua zia videro fra le acque tempestose un gigantesco serpente con 7 teste che cercava di distruggere la loro nave. In quel momento la piccola Mariana perse i sensi. Madre Maria pregò il Signore che li salvasse e improvvisamente la luce del giorno fece breccia in quella spaventosa oscurità e l'uragano si placò. Quando Mariana rinvenne, raccontò alla zia di avere visto un serpente più grande del mare che si contorceva e poi una signora di incomparabile bellezza vestita di sole con una corona di stelle sulla testa e un bambino in braccio. La signora trafiggeva con una lancia la testa del serpente. Mariana iniziò il noviziato all'età di 15 anni e qualche anno dopo fece la professione di fede. Un giorno del 1582, quando era ancora una giovane suora, mentre stava pregando nel coro del suo convento davanti al Santissimo Sacramento, udì un rombo terrificante e improvvisamente vide la chiesa avvolta da una fitta oscurità. Solo l'altare maggiore rimase illuminato. Allora si aprì la porta del tabernacolo e comparve Gesù in croce. La Vergine Maria, San Giovanni Evangelista e Santa Maria Maddalena erano in piedi accanto a lui come sul Calvario. Mariana allora sentì una voce: «Il castigo è per il 20° secolo». Vide 3 spade, ciascuna riportava un'iscrizione. Sulla prima era scritto: «Punirò l'eresia». Sulla seconda: «Punirò l'impietà». E sulla terza: «Punirò l'impurità». Allora la Madonna disse a Mariana: «Figlia mia, vuoi sacrificarti per queste persone?» «Sono pronta», rispose prontamente la giovane suora. E in quel momento le 3 spade trafissero il suo cuore, facendola morire. La mattina seguente le sue consorelle trovarono il suo corpo ormai freddo, riverso per terra nel coro. La sua morte venne confermata anche dal dottor Don Sancho e da un frate francescano. Mariana, dopo essere morta, comparve dinanzi al Signore per essere giudicata, ma in lei non fu trovato alcun peccato. Gesù le chiese se voleva accettare di tornare sulla terra per espiare per gli uomini del 20° secolo. E Suor Mariana accettò e venne rimandata sulla terra per compiere la sua missione, e per questo, per tutta la sua esistenza terrena, il Signore non le risparmiò alcuna sofferenza. Nella notte del 17 settembre 1588, Suor Mariana ricevette le piaghe di Cristo nelle mani, nei piedi e nel costato. Fu tormentata per tutta la vita da Satana, ma anche dotata di doni mistici straordinari, tra i quali quello del discernimento dello Spirito. Significato e contenuto delle apparizioni. La Madonna ha parlato a Madre Mariana dei tempi futuri della Chiesa Cattolica, in particolare nel periodo della metà del secolo XX in poi. La Madonna le descrisse la grave crisi che avrebbe subito la Chiesa Cattolica e la società in generale, condannando in diverse occasioni l'opera satanica, demolitrice e devastatrice della massoneria, sia nei confronti della Chiesa Cattolica che della società. Nell'apparizione del 1582, con la Santissima Trinità, la Madonna chiese e ottenne da Madre Mariana il suo consenso di offrirsi come vittima sacrificale, non solo per il suo convento e per il suo paese, ma soprattutto per la Chiesa Cattolica Universale e la società, che nel periodo profetizzato del XX secolo sarebbero precipitati in una crisi drammatica e profonda. La Madonna insistette sulla necessità della preghiera, della mortificazione, della penitenza e della sofferenza, non solo come dono gradito a Dio, ma come unico strumento col quale Madre Mariana e il suo convento sarebbero state in grado di aiutare la Chiesa Cattolica e il mondo. Le apparizioni di Nostra Signora del Buon Successo a Madre Mariana contengono molte profezie inerenti la società, il governo e la Chiesa dell'Ecuador, ma offrono anche una visione dello stato disastroso in cui la Chiesa Cattolica Universale e il mondo intero sarebbero precipitati nel secolo XX e oltre. Nel corso di questi ultimi 400 anni, la maggior parte di queste profezie si sono avverate, e anche questo dimostra l'autenticità di queste apparizioni. Ma ve ne sono altre che si devono ancora realizzare, in particolare quella della restaurazione completa della Chiesa Cattolica. Sin dall'approvazione del Vescovo di Quito, avvenuta nel 1610, tutti i vescovi che si sono succeduti nella diocesi hanno sempre promosso ufficialmente e pubblicamente questa devozione. Ora ci si domanda: perché dopo 400 anni i fedeli della Chiesa Cattolica Universale dovrebbero coltivare questa devozione e rivolgersi alla Madonna sotto l'invocazione di Nostra Signora del Buon Successo? In queste sue profezie, la Madonna chiese a Madre Mariana di adoperarsi perché i popoli che sarebbero stati colpiti dall'ira di Dio si potessero rivolgere al Padre Celeste, supplicandolo con insistenza di accorciare i tempi di questo castigo divino, promettendo che lei stessa un giorno avrebbe in modo meraviglioso operato la restaurazione completa della Chiesa Cattolica. Per promuovere questa devozione, più volte la Madonna aveva ordinato a Madre Mariana di far scolpire una statua a sua immagine, fino a quando il 21 gennaio 1610 le disse: «Ora ti comando di far costruire la mia statua per la consolazione e la preservazione del mio convento e per le anime di quel tempo che vivranno in un'epoca in cui vi sarà una grande devozione per me, perché io sono la regina del cielo sotto molte invocazioni. Questa devozione sarà lo scudo tra la giustizia divina e il mondo prevaricatore, per impedire l'attuazione della terribile punizione di Dio, che questa terra colpevole si merita». Questa sacra statua fu completata nel corso di un anno e fu consacrata dal Vescovo di Quito il 2 febbraio del 1611. Questa è la sacra statua di Nostra Signora del Buon Successo, miracolosamente completata dai tre arcangeli Gabriele, Raffaele e Michele, e che risiede tuttora nel convento dell'Immacolata Concezione di Quito. Disse ancora la Madonna: «La mia ora arriverà, quando io, in modo sorprendente, detronizzerò l'orgoglioso e maledetto Satana, schiacciandolo sotto il mio piede e incatenandolo negli abissi infernali. Il futuro del mondo e della Chiesa». Con gli occhi fissi sul tabernacolo, Madre Mariana, alle 3 del mattino del 2 febbraio 1634, pregava Nostro Signore, comunicandogli tutto il suo amore per Lui. Terminata la preghiera, ella vide la lampada del santuario davanti a Gesù sacramentato spegnersi improvvisamente, lasciando l'altare maggiore nel buio più completo. Poi ad un tratto vide una luce celestiale illuminare tutta la chiesa. La regina del cielo apparve e, accesa la lampada del tabernacolo, si avvicinò a lei presentandosi come Maria del Buon Successo e spiegandole il significato dell'oscuramento del santuario con queste parole: «Lo spegnimento della luce del santuario ha diversi significati. La prima ragione dello spegnimento della luce del santuario è che dalla fine del secolo XIX e in larga parte del secolo XX varie eresie saranno propagate. Quando queste avranno il sopravvento, la luce preziosa della fede si estinguerà nelle anime per la quasi totale corruzione dei costumi. Durante questo periodo vi saranno grandi catastrofi fisiche e morali. Il piccolo numero di anime che nascoste conserveranno il tesoro della fede e delle virtù soffriranno in modo indicibilmente crudele un prolungato martirio. Molti di loro moriranno per la violenza delle sofferenze, e quelli che si sacrificheranno per la Chiesa e per la Patria saranno considerati martiri. Per liberare gli uomini dal vincolo di queste eresie, quelli che l'amore misericordioso del mio Santissimo Figlio destinerà per la restaurazione dovranno avere grande forza di volontà, costanza, prudezza e molta fiducia in Dio. Per provare questa fede e fiducia del giusto, vi saranno momenti in cui tutto sembrerà perduto e paralizzato. Questo sarà il felice inizio della completa restaurazione. La seconda ragione dello spegnimento della luce del santuario è che il mio convento, essendo ridotto drasticamente nel numero, sarà sommerso in un incomprensibile oceano di indescrivibile amarezza e sembrerà negare in queste diverse acque di tribolazione. Quante autentiche vocazioni periranno per mancanza di discrezione, discernimento e prudenza da parte delle maestre e delle novizie che le formano. Esse dovrebbero essere anime di preghiera e ben erudite nelle svariate vie spirituali. Guai a quelle anime che torneranno alla Babilonia del mondo dopo essere state nel posto sicuro di questo benedetto convento. Durante questa epoca sfortunata, l'ingiustizia entrerà persino nel mio giardino chiuso, mascherata sotto il nome di falsa carità. L'ingiustizia seminerà la rovina nelle anime. L'astioso diavolo cercherà di seminare la discordia per mezzo di membri putridi, i quali, mascherati da un'apparenza di virtù, saranno come sepolcri in corruzione che emanano la pestilenza della putrefazione, causando morti morali in alcuni e tiepidezza in altri. Essi conficcheranno una spada a doppio taglio nelle mie figlie fedeli, le mie anime nascoste, facendole soffrire di un continuo e lento martirio. Queste figlie fedeli piangeranno in segreto e si lamenteranno presso il loro Signore Dio, e le loro lacrime saranno presentate dal loro angelo custode al Padre Celeste, chiedendo che tali tempi siano accorciati per l'amore del divin prigioniero. La terza ragione dello spegnimento della luce del santuario è che lo spirito di impurità, che saturerà l'atmosfera in quei tempi come un oceano ripugnante, inonderà le strade, le piazze e i luoghi pubblici con un'incredibile libertà. Non vi saranno quasi più anime vergini nel mondo. Il fiore delicato della verginità, timido e minacciato di completa estinzione, risplenderà molto da lontano. Prendendo rifugio nei conventi, vi troverà un buon terreno e, prendendo radici, crescerà e vivrà, e la sua fragranza sarà la delizia del mio santissimo figlio e lo scudo contro l'ira divina. Senza verginità sarebbe necessario che sopra questi paesi cadesse il fuoco del cielo per purificarli. In questi tempi di maliziosa superbia, l'invidioso e pestifero diavolo cercherà di introdursi anche in questi giardini chiusi dei conventi dei religiosi per far appassire questi fiori meravigliosi e delicati, ma io lo affronterò e gli schiaccerò la testa sotto i miei piedi. Ahimè, che dolore! Vi saranno anime incaute che volontariamente si getteranno tra i suoi artigli. Altri, ritornati al mondo, diventeranno gli strumenti del diavolo per la perdita delle anime. La quarta ragione dello spegnimento della luce del santuario è che attraverso l'acquisizione del controllo su tutte le classi sociali, la setta massonica sarà così astuta da penetrare nel cuore delle famiglie, per corrompere persino i bambini, e il diavolo si farà gloria di nutrirsi con perfidia della squisita delicatezza del cuore dei bambini. Durante questi tempi sfortunati, il male assalirà l'innocenza infantile e in questo modo le vocazioni al sacerdozio saranno perdute e questo sarà un vero disastro. Sarà compito di gruppi religiosi sostenere la Chiesa e lavorare con valoroso e disinteressato zelo per la salvezza delle anime, perché durante questo periodo l'osservanza della regola splenderà nelle comunità e vi saranno santi ministri dell'altare, nascosti, e anime meravigliose dalle quali il mio santissimo figlio ed io trarremo la nostra delizia, considerandoli fiori eccellenti e frutti di santità eroica. Gli empi dichiareranno una guerra crudele contro di essi, coprendoli di insulti, calunnie e vessazioni, per impedire il compimento del loro ministero. Ma essi, come salde colonne, rimarranno irremovibili e affronteranno tutto questo con quello spirito di umiltà e sacrificio col quale sono rivestiti dalla virtù dei meriti infiniti del mio santissimo figlio, il quale li ama come le fibre più recondite del suo santissimo e tenerissimo cuore. In questa epoca il clero secolare abbandonerà i suoi ideali perché i sacerdoti diventeranno negligenti nei loro sacri doveri. Persa la bussola divina, essi si allontaneranno dalla strada tracciata da Dio per il ministero sacerdotale e saranno attaccati ai beni e alle ricchezze che essi si sforzeranno illecitamente di ottenere. Quanto soffrirà la Chiesa durante questa notte buia. Pregate insistentemente senza stancarvi e piangete con lacrime amare. Nel segreto del vostro cuore, implorando il nostro Padre Celeste, il quale, per l'amore del cuore eucaristico del mio santissimo Figlio e per il suo prezioso sangue versato con tanta generosità e per la profonda amarezza e sofferenza della sua crudele passione e morte, egli potrebbe avere pietà dei suoi ministri e porre rapidamente fine a questi tempi infausti, mandando alla sua Chiesa il prelato che ristorerà lo spirito dei suoi sacerdoti. Il mio santissimo Figlio ed io ameremo questo figlio privilegiato con un amore di predilezione e noi gli faremo dono di rare capacità. Umiltà di cuore, docilità alla divina ispirazione, forza per difendere i diritti della Chiesa, un cuore tenero e compassionevole, cosicché come un altro Cristo egli assisterà i grandi e i piccoli, senza disdegnare le anime più sfortunate, che gli chiederanno un po' di luce e di consiglio nei loro dubbi e sofferenze. Con divina suavità, egli guiderà le anime consacrate al servizio di Dio nei conventi, alleggerendo il giogo del Signore, il quale ha detto: «Il mio giogo è dolce e il mio carico leggero». La tiepidezza di tutte le anime consacrate a Dio nello stato sacerdotale e religioso ritarderanno la venuta di questo prelato e padre. Questa dunque sarà la causa che permetterà al demonio maledetto di prendere possesso di questo paese, dove egli conseguirà le sue vittorie per mezzo di stranieri e gente senza fede, così numerosi che come una nube nera oscureranno il limpido cielo di questa futura repubblica che sarà consacrata al Santissimo Cuore del mio Divin Figlio. Con questa gente tutti i vizi entreranno e attrarranno a loro volta ogni tipo di castigo, come calamità, carestie, guerre, dispute con altre nazioni e apostasia. La causa della perdizione di così tante anime così care a Gesù Cristo e a me. Per dissipare questa nube nera che impedisce alla Chiesa di beneficiare del giorno limpido della libertà, vi sarà una guerra spaventosa e tremenda che vedrà lo spargimento di sangue di nativi e stranieri, di sacerdoti regolari e secolari e anche di monache. Quella notte sarà la più orribile perché sembrerà che, umanamente parlando, il male abbia trionfato. Questo allora segnerà l'arrivo della mia ora, quando io in un modo sorprendente detronizzerò l'orgoglioso Satana, schiacciandolo sotto il mio piede e incatenandolo negli abissi infernali, liberando così finalmente la Chiesa e la nazione dalla sua crudele tirannia. La quinta ragione dello spegnimento della luce del santuario è dovuta alla fiacchezza e negligenza di quelli che possiedono grandi ricchezze, i quali stanno a guardare con indifferenza la Chiesa che sarà oppressa, la virtù perseguitata e il male che trionfa, senza devotamente impiegare le loro ricchezze per la distruzione del male e per restaurare la fede. Questa ragione è dovuta anche all'indifferenza di quella gente che permetterà che il nome di Dio venga gradualmente fatto sparire e che aderirà allo spirito del male, consegnandosi liberamente ai vizi e alle passioni. Ahimè, figlie mie predilette, se vi fosse concesso di vivere in questa era tenebrosa, voi morireste di dolore nel vedere avverarsi tutto quello che io vi ho rivelato. Il mio Santissimo Figlio ed io abbiamo un tale grande amore per questo paese, nostra eredità, che noi desideriamo persino, sin da ora, richiedere il vostro sacrificio e le vostre preghiere per accorciare i tempi di una tale terribile catastrofe. Dopo questa mirabile visione, tutto ciò che era stato narrato da Nostra Signora apparve agli occhi di Madre Mariana come una silenziosa presentazione. Le fu così dato di conoscere il numero interminabile di anime che sarebbero state condannate per le ragioni sopra menzionate. A questa vista, Madre Mariana perse i sensi e rimase come morta per un paio di giorni. Il dottore fu incapace di rianimarla, si aspettava che la morte fosse inesorabile. Madre Mariana però miracolosamente si svegliò e visse il suo ultimo anno. Apparizione di Gesù. Il 2 novembre 1634, dopo aver ricevuto la comunione, Madre Mariana ebbe una visione di Gesù Cristo. Egli era tutta una ferita, soprattutto il suo Sacro Cuore, che era ricoperto di piccole ma strazianti spine che lo tormentavano con una indescrivibile crudeltà. Egli versava copiose lacrime accompagnate da lamenti e sospiri. Madre Mariana lo abbracciò nel suo cuore e in uno scoppio d'amore addolorato esclamò: «Stimato e adorato amore della mia anima, è possibile conoscere la causa della tua sofferenza e del tuo crudele martirio?» Gesù Cristo, rivoltole lo sguardo con amorosa tenerezza e dopo un profondo sospiro, disse: tu vedi come queste piccole spine mi feriscono crudelmente. Sappi che esse sono i peccati dei miei preti, secolari e religiosi, che io prendo dal mondo e conduco nei conventi. Io li colmo di un diluvio di grazie spirituali, dando loro anche prolungate malattie, in modo che essi possano diventare come me. Ma ingrati e senza cuore, essi si lamentano della mia amorevole provvidenza. Essi pensano che io sia crudele verso di loro e, ritirandosi con indifferenza, mi lasciano solo. Lo spirito di tali anime avvizzisce come un fiore bruciato, seccandosi e diventando incapace di emettere la sua fragranza nel giardino di mia madre immacolata, al quale tali anime erano chiamate. Con questo comportamento ingrato, essi conficcano queste sottili spine nel mio cuore, ferendolo crudelmente, che è tutto amore e affetto per le mie anime scelte. Allo stesso tempo, essi vanificano i grandi piani che io avevo per loro. Per questa ragione, io li metto alla prova in questo modo, perché la croce e la tribolazione sono il patrimonio del giusto qui sulla terra. Instilla nelle tue attuali figlie l'amore per la croce e per il sacrificio, così che esse possano trasmetterle di generazione in generazione in questo convento come negli altri ordini in generale. Imbevile anche di amore per la loro vocazione religiosa e per i peccatori, e insegna loro a corrispondere fedelmente all'ispirazione della grazia. Tempo verrà che la dottrina verrà diffusa tra i dotti e gli ignoranti, accessibile ai preti e ai religiosi, e persino alla gente comune. Saranno scritti molti libri, ma la pratica delle virtù a questa dottrina si troveranno solo in poche anime, perché i santi diventeranno una rarità. Precisamente per questa ragione i miei preti e i religiosi cadranno in una fatale indifferenza. La loro freddezza estinguerà il fuoco dell'amore divino, affliggendo il mio cuore amoroso con queste piccole spine che tu vedi. Per questa ragione io desidero che ci siano anime qui, nelle quali io possa riposare dalla mia fatica e delle quali io possa compiacermi. Le loro vite afflitte ed espiatorie sono le mani carezzevoli e compassionate che rimuovono queste sottili spine dal mio cuore e che vi applicano il balsamo necessario. Ahimè, se ti fosse dato di comprendere la mia intensa sofferenza interiore che mi ha accompagnato dall'incarnazione nel purissimo grembo della mia Vergine Madre fino al momento in cui la mia anima ha lasciato il corpo lacerato dai chiodi sulla croce. E questa sofferenza è causata dalla mancata corrispondenza al diluvio di grazie con le quali io inondo i miei preti e i religiosi e conseguentemente dai peccati che essi commettono. Sappi inoltre che la giustizia divina manda terribili castighi su intere nazioni, non solo per i peccati della gente, ma soprattutto per i peccati dei sacerdoti e dei religiosi, perché questi ultimi sono chiamati dalla perfezione del loro stato ad essere il sale della terra, i maestri delle verità, coloro che trattengono l'ira divina. Deviando dalla loro sublime missione, essi si degradano ad un punto tale che agli occhi di Dio sono proprio loro ad accelerare il rigore dei castighi, perché separandosi da me finiscono per vivere solo una vita superficiale dell'anima e mantenersi lontano da me non è degno dei miei ministri. Con la loro freddezza e mancanza di fiducia, essi agiscono come se per loro io fossi un estraneo. Ahimè, se solo sapessero, se loro fossero convinti di quanto io li ami e desideri che essi entrino nella vera profondità delle loro anime, là senza alcun dubbio essi troverebbero me e vivrebbero necessariamente la vita dell'amore, luce e continua unione per la quale essi non solo sono stati chiamati, ma scelti. Ora, mia sposa, nei pochi mesi di esilio che ti rimangono, lavora incessantemente per la perfezione dei miei preti e religiosi. in unione con i miei meriti infiniti e quelli di mia madre immacolata, offri tutto quello che fai, perfino il tuo ultimo respiro. Per questo io sono enormemente soddisfatto delle anime religiose che si fanno carico del sublime compito di santificazione del clero per mezzo delle loro preghiere, sacrifici e penitenze. In ogni tempo io sceglierò tali anime in modo che unendosi a me essi lavorino, preghino e soffrano per conseguire questo nobile fine e una gloria speciale li attenderà in cielo. Le rivelazioni della Madonna a Madre Mariana de Jesus. Riepilogo generale. La Madonna descrive così a Madre Mariana i mali del XX secolo. Durante questo periodo, poiché in questo povero paese, si parla dell'Ecuador, mancherà lo spirito cristiano, il sacramento dell'estrema unzione sarà poco considerato. Molte persone moriranno senza riceverlo, sia a causa della negligenza delle loro famiglie o per i loro falsi sentimenti, che cercano di proteggere gli ammalati dal vedere la gravità della loro situazione, oppure perché si ribelleranno contro lo spirito della Chiesa Cattolica, spinti dalla malizia del diavolo. Così molte anime saranno private di innumerevoli grazie, consolazioni e della forza di cui hanno bisogno per fare il grande salto dal tempo all'eternità. Come per il sacramento del matrimonio, che simboleggia l'unione di Cristo con la sua Chiesa, esso verrà attaccato e profanato nel pieno senso della parola. La massoneria, che in quel tempo sarà al potere, emanerà leggi inique con l'obiettivo di abolire questo sacramento, rendendo facile per tutti vivere nel peccato, incoraggiando la procreazione di figli illegittimi nati senza la benedizione della Chiesa. Lo spirito cristiano verrà meno rapidamente, spegnendo la preziosa luce della fede finché non si arriverà al punto che ci sarà una quasi totale e generale degenerazione dei costumi. Aumenteranno gli effetti dell'educazione secolare, che sarà una delle ragioni della mancanza di vocazioni sacerdotali e religiose. Il sacro sacramento dei santi ordini sarà deriso, oppresso e disprezzato. Il demonio cercherà di perseguitare i ministri del Signore in ogni maniera possibile e agirà con crudele e sottile astuzia per sviarli dallo spirito delle loro vocazioni, corrompendo molti di loro. Questi sacerdoti corrotti, che saranno motivo di scandalo per i cristiani, faranno sì che l'odio dei cattivi cristiani e dei nemici della Chiesa Cattolica e Apostolica Romana ricada su tutti i sacerdoti. Questo apparente trionfo di Satana porterà enormi sofferenze ai buoni pastori della Chiesa. Non ci sarà quasi più innocenza nei bambini, né pudicizia nelle donne. E in questo momento di grande miseria della Chiesa, quelli che dovrebbero parlare rimarranno in silenzio. Ma sappi, amata figlia, che quando nel XX secolo il tuo nome sarà fatto conoscere, ci saranno molti che non crederanno, affermando che questa devozione non è gradita a Dio. Il clero secolare lascerà molto a desiderare, perché i sacerdoti diventeranno negligenti nei loro sacri doveri. Non avendo la bussola divina, essi si allontaneranno dalla strada tracciata da Dio per il ministero sacerdotale e saranno attaccati ai beni e alle ricchezze. Quanto soffrirà la Chiesa durante questa notte buia. Mancando un prelato e un padre che li guidi con amore paterno, dolcezza, fortezza, saggezza e prudenza, molti sacerdoti perderanno il loro spirito, ponendo le proprie anime in grande pericolo. Questo segnerà l'arrivo della mia ora. Attraverso l'acquisizione del controllo su tutte le classi sociali, le sette tenderanno a penetrare con grande astuzia nel cuore delle famiglie e distruggeranno persino i bambini. Il diavolo si farà gloria di nutrirsi con perfidia dei cuori dei bambini. L'innocenza dell'infanzia quasi scomparirà. Così si perderanno le vocazioni dei religiosi e questo sarà un vero disastro. I religiosi abbandoneranno i loro doveri sacri e si allontaneranno dalla via segnata per loro da Dio. Satana avrà il controllo di questa terra attraverso gli errori di uomini senza fede, i quali, come una nuvola nera, oscureranno il cielo della Repubblica consacrata al Sacro Cuore del mio Divin Figlio. Questa Repubblica, avendo consentito l'ingresso di tutti i vizi, dovrà subire ogni sorta di castighi, tra i quali ci saranno pestilenze, carestie, lotte tra le persone e gli stranieri che indurranno un gran numero di anime all'apostasia e alla perdizione. E per disperdere queste nubi nere che nascondono il giorno chiaro della libertà della Chiesa, ci sarà una formidabile e terribile guerra nella quale scorrerà il sangue di nativi e stranieri, di sacerdoti regolari e secolari e anche di monache. Quella notte sarà la più orribile, perché sembrerà all'umanità che il male abbia trionfato. E allora la mia ora sarà giunta per detronizzare l'orgoglioso Satana in una maniera sorprendente, schiacciandolo sotto il mio piede e incatenandolo negli abissi infernali, liberando così finalmente la Chiesa e la nazione dalla sua crudele tirannia. Ciò che è più doloroso e che nel XX secolo persino il clero secolare lascerà molto a desiderare, perché i ministri dell'altare avranno dimenticato la loro sublime missione di identificarsi con il mio Santissimo Figlio attraverso una preghiera umile, quotidiana, fervente. Essi vivranno solo una vita superficiale dell'anima, senza distaccarsi dalle cose materiali, essendo troppo attaccati alla famiglia e alle ricchezze. Penseranno di poter aspirare alla santità nello stato sacerdotale praticando una o due virtù, senza curarsi di costruire le solide fondamenta di una profonda umiltà, senza la quale non può esserci alcuna virtù. Sappi inoltre, disse Gesù ancora a Madre Mariana, che la giustizia divina manda terribili castighi su intere nazioni, non solo per i peccati della gente, ma anche per quelli di sacerdoti e religiosi, perché questi ultimi sono chiamati alla perfezione del loro stato, ad essere il sale della terra, i maestri di verità e coloro che tengono lontana l'ira divina. Deviando dalla loro missione divina, essi si degradano ad un punto tale che agli occhi di Dio sono proprio loro ad accelerare il rigore dei castighi, perché separandosi da me finiscono per vivere solo una vita superficiale dell'anima e mantenersi distanti da me non è degno dei miei ministri. Con la loro freddezza e mancanza di fiducia agiscono come se per loro fossi un estraneo.